Zagini kabenash padua wine. Zagini kabeke peche imilo. Shini don danina pativeuna. Zagini kabenash padua wine. Shini don danina pativeuna. Limananu kafe ungarana shi. Rudigi du bilagi do. Nessa chagana neli. Limananu kafe ungarana shi. Rudigi du bilagi do. Nessa chagana neli. Ganano pa bianga na chieli, la chinoanga na na chineli. Pagini cabena ne sagru, ujila cabena gaspidolo. Limanano cafe ungara na chi, rugidi do milagi do, ne sa changa na neli. Limanano cafe ungara na chi. Digi du villaggi don, ne sa changa naneli. Lingananu pavianga na cieli, la giduanga na nascineli. Pagini cabenan ne salullo, ugila cabenan gaspidollo. Limananu cafe ungarana sci, lo digi du villagido, ne sa chagana neli. Limananu cafe ungarana sci, lo digi du villagido, ne sa chagana neli.